Oggi continuiamo la nostra avventura con i Filippesi e c'è un tema che andremo a trattare attraverso i versetti dal 12 al 18 di Filippesi 1 che a me sta così tanto a cuore. E il tema che andremo a sviscerare oggi insieme è il gioire in Cristo. Gioire in Cristo è la cosa, forse è tra le cose più importanti e fondamentali che come figli di Dio dobbiamo proprio mettere a fondamento della nostra vita. E io sono convinto che lo Spirito Santo questa mattina avrà anche solo una parola che sarà quella rivelazione per te per tornare a casa e iniziare qualcosa di nuovo in maniera diversa rispetto a come lo hai fatto fino ad oggi. Ci siete con me? Quanti dicono sì, io sono convinto che sarà così per me? Benissimo. Se non hai alzato la mano, peggio per te. Filippesi 1, scherzo. Filippesi 1, 12, 18. Leggiamo insieme. È l'Apostolo Paolo in catene a Roma che sta scrivendo una lettera ai Filippesi. Desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo. Di che cosa sta parlando? Del suo essere incatenato. Quindi lui sta scrivendo questa lettera per incoraggiare i Filippesi e a un certo punto in questa parte della lettera vuole sottolineare il fatto che lui sì è in prigione, ma mi è accaduto piuttosto, quello che gli è accaduto piuttosto ha contribuito al progresso del Vangelo, verso 13, al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo. E la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Vero è, però, un po' side note di quello che Paolo sta dicendo, che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per rivalità, ma ce ne sono anche altri che lo predicano di buon animo. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato della difesa del Vangelo. Ma quelli annunziano Cristo con spirito di rivalità, non sinceramente, pensando di provocarmi qualche afflizione nelle mie catene. Mi piace la risposta che si dà e che dà ai Filippesi che si stavano ponendo questa domanda. Che importa? Questa forse è già una parola per te stamattina. Che importa? Forse ti devi guardare allo specchio, devi dire tu hai vinto e poi pensando a tutto il resto devi dire che importa? Che importa? Comunque sia, con ipocrisia o con sincerità, Cristo è annunziato. Di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora. Analizzeremo questi versi ponendoci 5 domande e negli appunti che ho preparato questa volta, molto semplici, ho scritto solo i punti. Questi punti sono 5 domande che volendo possiamo farci ogni volta che ci approcciamo a leggere la parola di Dio. Ecco perché ho pensato che era bello lasciare un foglio bianco dove scriviamo la domanda e poi voi aggiungete quello che il Signore Gesù metterà nel vostro cuore mentre stiamo leggendo. Perché la verità è che ognuno di noi, leggendo la parola e ponendosi delle domande, può dare un messaggio attraverso quella parola che ha ricevuto nel suo cuore e che ha portato trasformazione nel suo cuore. Che bello che ci sei, zia Graziella, stamattina! Che bello vederti! Un applauso, sì! Dato che siamo in questa parentesi, ho visto pure che Rosalia si è fatta un'acconciatura da grido stamattina. Fantastica! Mentre stavamo pregando, ho visto questa sagoma. Ho detto, chi è? Ho detto, chi è che sta vicino a Nicola? Ah, è Rosalia, questa sagoma. Fantastico! Stiamo gioendo in Cristo, no? Io sono felice di vedere zia Graziella e sono felice di vedere questa bellissima acconciatura di Rosalia. Punto numero uno, domanda numero uno che ci possiamo porre è chi? A chi sta parlando Paolo in questi versi che abbiamo letto? Di chi sta parlando Paolo in questi versi che abbiamo letto? E come possiamo applicare a noi oggi tutto questo? Ovvero, chi oggi può farmi gioire in Cristo? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre, perché Paolo qui sta gioendo in Cristo e sta dando una testimonianza di gioia. Chi oggi può fare gioire me e te in Cristo? Lo Spirito Santo. Questo è quello che possiamo aggiungere nei nostri appunti, per ricordarcelo quando ci sfugge, quando A volte ci siamo svegliati col piede sinistro la mattina. Lo Spirito Santo, il mio consolatore, ovvero il Paracletos, e ora andremo a capire che significa questo. Sapete, lo Spirito Santo è identificato da parte di Gesù come il nostro consolatore. Infatti in Giovanni 14, lo leggiamo insieme, dal verso 16, Gesù dice: io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché sia con voi per sempre. Lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Ma voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà in voi. Io non vi lascerò orfani, tornerò da voi. E al verso 26 continua e dice: il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Sottolineatela questa frase nei vostri appunti, sottolineatela nel vostro cuore. Gesù non ci dà come il mondo dà. Quindi forse dobbiamo rivedere le nostre aspettative quando ci relazioniamo con Lui e ci affidiamo alla sua consolazione. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Sapete, la parola utilizzata da Gesù in questi versi per parlare dello Spirito Santo come il Consolatore è Paracletos. Questa è la parola originaria dal quale poi noi traduciamo Consolatore. Letteralmente, vi leggo la definizione, Paracletos vuol dire colui che è invocato, cioè si intendeva la persona chiamata al fianco di un'altra allo scopo di aiutarla, in particolare nei procedimenti legali, dove questa figura consigliava e parlava per conto di colui che lo aveva invocato. Chi ci può fare gioire in Cristo se non il nostro Consolatore? Chi abbiamo per sempre con noi, in noi, per insegnarci, per ricordarci, se non il nostro Consolatore, lo Spirito Santo? E sapete, lo Spirito Santo non solo è il nostro Consolatore, ma lo Spirito Santo in te contagia le persone intorno a te. E questo lo possiamo sottolineare e scrivere nei nostri appunti. Lo Spirito Santo in te contagia le persone intorno a te. E questo era quello che stava accadendo a Paolo in prigione, agli arresti domiciliari a Roma. Paolo non era concentrato sulle circostanze intorno a lui, ma Paolo era concentrato sull'eternità delle persone intorno a lui. E quando questa è la nostra passione, quando questo è il nostro pensiero, quando questo diventa la cosa che ci sveglia ogni giorno, può accadere qualsiasi cosa, noi non smetteremo mai di condividere quello che lo Spirito Santo ha messo nel nostro cuore per portare gli altri ad afferrare l'eternità che Gesù ha preparato anche per loro. A chi stava parlando Paolo? Verso 13. Al punto che tutti quelli del pretorio e tutti gli altri. Ora, il pretorio, cos'è il pretorio? Il pretorio era una legione, una guardia romana. E ho fatto un po' di ricerche. Si conta che nel periodo in cui Paolo era prigioniero a Roma, in ogni corte di ogni pretorio c'erano circa 1000 soldati. E io mi immagino che mentre Paolo era arrestato in questa casa adibita agli arresti domiciliari e c'era il cambio della guardia, che ad ogni cambio della guardia di questi mille soldati c'era qualcuno che in un modo o nell'altro Paolo portava ad incontrare Gesù e ad afferrare l'eternità. Perché tanto doveva dire, tanto doveva fare, tanto si doveva mettere che li portava a vedere quello che Gesù aveva preparato per la loro vita. Non solo, ma tutti gli altri, tutti quelli del pretorio e tutti gli altri. E in alcune ricerche che ho fatto ci sono alcuni documenti storici che evidenziano come molti servitori di Nerone, che era l'imperatore all'epoca in cui Paolo era prigioniero a Roma, molti servitori, molte guardie di Nerone avevano incontrato Gesù Cristo e avevano dato la loro vita a lui. Quindi quando lui ha questa passione che non lo porta ad essere disperato perché è in prigione, ma dice: oh, sono qui, io ho passione per vedere l'eternità nelle persone intorno a me. E ci sono questi soldati. Questi devono accettare Gesù, perché è per quello che sono qui. E lui ha condiviso così tanto. Io immagino che tutti gli altri, l'imperatore, i cortigiani, i magistrati, questo sta dicendo ai filippesi, tutti lo sanno che io sono qui e che non sto soffrendo perché sono una mala persona, ma sanno che sono qui perché sto soffrendo per Cristo, perché sono un uomo onesto, ho una buona coscienza, ma soffro perché io voglio Cristo e voglio dare Cristo e l'ho dato e mi hanno portato qua, mi hanno incarcerato, ma a me non mi interessa nulla, io lo darò pure alle guardie che vengono qua per tenermi in prigione e loro lo daranno all'imperatore e a tutti gli altri perché io farò questo farò, questo sono e questo lo farò fino a quando avrò respiro. A chi? Al pretorio, a tutti gli altri, a chi? Verso 14. La maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati nelle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Sapete, io immagino che forse era arrivata voce a Paolo che i filippesi erano un po' preoccupati del fatto che lui fosse in prigione, perché non so se ci ricordiamo, in Atti 16, quando Paolo arriva a Filippi, prima città dell'Europa che viene evangelizzata e viene portata a salvezza, viene incarcerato, no? Ci ricordiamo più o meno la storia, è quella storia famosa dove lui e Silla, mentre stanno nella prigione più recondita e nascosta, piuttosto che lamentarsi iniziano ad adorare e a cantare, come abbiamo fatto noi, senza strumenti, senza qualcuno che ci guida, ma dichiarando le vittorie che Gesù ha preparato per loro, e le porte si aprono. Quindi secondo me, in un qualche modo, forti di questa esperienza, wow, oh, cioè questo qua canta e si aprono le porte. Straordinaria questa cosa. Magari i filippesi dicevano, beh, mo dobbiamo pregare che pure là si devono aprire le porte. E com'è? Canta là e si aprono, canta a Roma e non si aprono. È vero che siamo romani, siamo italiani, però le prigioni quelle sono, no? E quindi secondo me si ponevano questi dubbi e dicevano, ma come? Come può essere? Come può essere che qui Gesù fa una cosa attraverso di Paolo, qui ne fa un'altra, ma dove sta Dio? Ma Dio forse non sta operando in questa situazione. Ma Paolo voleva sottolineare ai filippesi che era evidente come Dio poteva ancora servirsi di lui nonostante lui fosse in prigione. Anzi, lui vuole dire ai filippesi, state tranquilli, io sono felice che sto qua agli arresti domiciliari, perché tutti questi del pretorio, pure l'imperatore, sta arrivando a capire che c'è Gesù, che è vero, che è Dio, che lo vuole salvare. Quindi state tranquilli, vi voglio incoraggiare, che pure gli altri fratelli mi hanno visto in prigione, ma non si sono scoraggiati come voi, anzi, vedono che Dio mi sta proteggendo anche in prigione, quindi stanno dicendo a loro, vuoi sentire che pure se mi imprigionano, succede come a Paolo, quindi va tutto bene, non mi succede niente di grave. Lo Spirito Santo in lui stava contagiando i cristiani intorno a lui. Ora, la domanda che ci possiamo porre noi oggi è, se non tu, chi? Abbiamo visto Paolo, e Paolo ha scelto di essere la risposta con lo Spirito Santo a quel chi. Se non tu, chi? Così come sei, ma con lo Spirito Santo in te, puoi gioire nel condividere questa eternità con le persone intorno che ti circondano. Se non tu, chi? Sapete, se non tu, chi nella tua famiglia puoi essere quella dimostrazione che lo Spirito è con te, che il Consolatore è in te? Se non tu, chi nella relazione con tuo marito, con tua moglie, con tuo padre, con tua madre, con i tuoi figli? Se non tu, chi nel tuo luogo di lavoro puoi essere dimostrazione e contagiare con lo Spirito Santo che è in te, le persone intorno a te, di una gioia soprannaturale che viene da Gesù perché tu lo hai e perché lui è in te e perché lui è il tuo consolatore. Ci siete? Domanda numero 2 da segnare nei nostri appunti. Cosa? Di cosa sta parlando Paolo? Cosa sta facendo gioire Paolo in Cristo? come possiamo applicarlo a noi oggi? Cosa mi permette di gioire in Cristo? Questa è la domanda che ti puoi porti, che ci vogliamo porre questa mattina. E mi piace il verso 12 di Filippesi, dove lui dà una spiegazione ai Filippesi e dice: quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo. Che cosa fa gioire Paolo? Il suo contribuire al progresso del Vangelo. Questo è quello che porta gioia nella vita di Paolo. Cosa può farti gioire davvero di una gioia eterna? Una gioia che non si esaurisce l'istante dopo che l'hai provata. Quante volte cerchiamo la gioia nelle cose intorno a noi e quando l'istante dopo che quella cosa è finita, quella gioia si è esaurita? Questo è quello che cercano le persone intorno a noi, a cui Gesù ci chiama a dimostrare che c'è una gioia che è diversa, che è eterna. E siamo noi che lo possiamo fare, e siamo noi che lo dobbiamo fare. Il tuo contribuire al progresso del Vangelo è la gioia eterna che Dio ha preparato per te. Il mio contributo al progresso del Vangelo è quello che mi farà gioire davvero. E io lo so che se tu chiudi un attimo gli occhi e rifletti nel tuo percorso di vita fino ad oggi e ti ricordi quando ti sei sacrificato per quella cosa, per Gesù, e hai visto qualcuno accettarlo nel suo cuore e avere salvezza, se tu ti rifletti e immagini le emozioni e i sentimenti che hai provato in quel momento, li riprovi in questo momento, perché questa è una gioia eterna, perché questa è una gioia che nessuno ti potrà portare via. Il tuo contributo può trasformare una prigione nel posto più bello dove stare. Il tuo contribuire al progresso del Vangelo può far diventare la prigione dove sei il posto più bello dove stare. Paolo era felice, era in prigione, era felice, perché tutti stavano incontrando Gesù. E quindi lui scrive ai Filippesi e dice: non dispiacetevi per me, io sono felice, la mia vita non gira tutta attorno a me, a quello che non mi va, a quello che non è andato, a quello che sarebbe potuto essere, a quello che non è potuto stare, e non lo so, dimmi tu quello che vuoi, ma la mia vita gira attorno a Gesù Cristo e all'avanzamento del suo regno attraverso di me. E io sono felice. E io sono felice perché la mia storia, della mia vita, è più grande di me. È più grande di quello che sono queste circostanze in cui mi sto trovando. È una storia eterna. E io sono arrivato a Roma, alla capitale del mondo. E sto dando Gesù a questi romani che non parlano manco la lingua mia, ma in un qualche modo ci stiamo capendo. La mia vita è più grande, siate felici per me e imparate da me, perché questa è la mia gioia. Qual è la tua gioia? Qual è la tua gioia questa mattina? Sapete, a questo punto Paolo un po' apre questa parentesi dove parla di questi che predicano per invidia, e lui dà tutta una spiegazione. La verità è che in quel periodo, quando Paolo era in catene, alcuni predicatori, alcune persone che facevano quello che lui faceva, vedendolo in prigione, hanno detto: ci siamo liberati, mo noi dobbiamo essere i Paolo della situazione. E quindi hanno iniziato a predicare, hanno iniziato ad andare a destra e a sinistra, e quindi magari c'erano tanti pettegolezzi, tanti gossip, no, di tante cose. E Paolo sta dicendo: vabbè, ok, che questi predicano perché vogliono fare di più. L'importante è che dicono le cose giuste. Poi, o per invidia, o per ipocrisia, l'importante è che dicono che Gesù ama le persone incontrano Gesù e noi stiamo tutti a posto. Che importa, Filippesi? Che cosa vi state perdendo? Cioè, c'è qualcosa di straordinario che sta accadendo e tu ti stai perdendo in queste cose che non hanno senso. Che cosa importa? Che cosa importa? Mi piace, un commentario diceva che il cuore di Paolo era questo: se predichi il vero Vangelo, non mi interessa quali siano le tue motivazioni. Se le tue motivazioni sono cattive, Dio si occuperà di te. Questa è la verità. Ma almeno il Vangelo è predicato. Ma quello che stava a cuore a Paolo, che lo spiega poi anche nei Galati, non lo andremo a leggere, era quando qualcuno predicava un falso Vangelo. Se predicate un falso Vangelo, allora vi dovete stare zitti. Non mi interessa se avete un bellissimo cuore e volete che tutti ascoltino questa parola fantastica, ma se il Vangelo che state predicando non è quello giusto, è meglio che vi state zitti. Lì, diciamo, diventava un po' ruggente la situazione. Ma se le persone stanno incontrando Gesù, cosa importa? Gioite, perché il progresso del Vangelo sta arrivando a conquistare il mondo. Il mondo. Punto numero tre. Domanda numero tre. Dove? A quale posto Paolo fa riferimento? Dove Paolo sta gioendo in Cristo? E come possiamo noi applicarlo a noi oggi? Dove posso gioire in Cristo? Questa è una domanda che ti devi porre. Perché tante volte nella nostra mente ci poniamo tanti step, no? E quindi pensiamo che il nostro gioire in Cristo sarà un traguardo che raggiungeremo quando questa cosa arriverà in questa situazione. Dove posso gioire in Cristo? Qui, nel posto in cui sono. Qui, nel posto in cui sono. Nel verso 13 Paolo aveva raggiunto una consapevolezza e nella scrivere ai Filippesi dice: è divenuto noto a tutti che io sono prigioniero, sono in catene per Cristo. Paolo sì era in prigione, ma non era in prigione per Roma e non era in catene per i romani. Non era in tutto questo per volere degli uomini, era in tutto questo per Cristo. Questa mia prigionia è perché Cristo deve progredire nell'avanzare attraverso di me. Sono le sue catene per Cristo che hanno permesso a Cristo stesso di arrivare alla corte dell'imperatore. Perché l'imperatore non sarebbe mai arrivato a capire chi era Gesù se Paolo non si fosse trovato lì, in quel posto, in quel momento, a dare e a dire e a contagiare nel modo in cui lo Spirito Santo stava facendo attraverso di lui. Era stata la morte di Stefano, vi ricordate, in Atti 7, che aveva permesso a Saulo di diventare Paolo e vedere qualcosa che altrimenti non avrebbe potuto vedere. Se Stefano non fosse morto quel giorno davanti agli occhi di Saulo, Saulo in Atti 9 non avrebbe mai potuto gridare a Gesù di quello che aveva visto accadere, di tragico, di brutto, di catastrofico quel giorno in cui Stefano era morto. Perché quello che vuole dire Paolo ai Filippesi è: se vi trovate in una sorta di prigione come me qui, dove mi trovo, potete imparare da me e gioire qui nel posto in cui siete. Non è che sempre dobbiamo adorare e la porta si deve aprire e dobbiamo uscire. Non è questo l'obiettivo di servire Cristo ed eventualmente essere prigionieri. Attenti, non vi viziate, perché non è questo quello che Gesù ci voleva dire quel giorno quando io stavo da voi. È un'altra storia quella che Gesù ci voleva dire, è quella che io vi sto dicendo adesso, è la continuazione dell'inizio di quella storia che abbiamo vissuto insieme. Anzi, fratelli e sorelle, amici, amiche, possiamo sempre gioire in Cristo qui nel posto in cui ci troviamo. E per la nostra gioia le persone possono essere incoraggiate. Succede la stessa cosa a te. Sono le persone incoraggiate guardandoti nel posto in cui tu ti trovi, al di là del posto in cui sei, per la gioia che tu hai nel progresso del Vangelo attraverso di te? Sono incoraggiate. Se non qui, nella tua famiglia, così com'è, dove lo Spirito Santo può operare in te per permetterti di gioire e trasformare la storia della tua famiglia? Se non qui, nel tuo lavoro, così com'è, dove puoi gioire in Cristo e contagiare le persone intorno a te? Se non qui, nella tua malattia, in attesa che la guarigione arrivi, dove? Se non qui, dove potrà manifestarsi l'opera dello Spirito Santo attraverso di te? È qui che lo Spirito Santo vuole entrare in azione, è nel posto in cui tu sei. Chi? Cosa? Dove? Quarto punto, quarta domanda, quando? Sta facendo caldo, ragazzi. A quale circostanza Paolo fa riferimento? In quale situazione sta gioendo in Cristo? E come noi possiamo applicarlo oggi alla nostra vita? Quando posso gioire in Cristo? Questa è una buona domanda che tante volte io mi sono fatto. Sapete qual è la risposta? Quando posso gioire in Cristo? La risposta è ora, nella circostanza in cui mi trovo. E questa risposta è parte del diventare adulti, quello che Luigi ci ha predicato domenica scorsa, del diventare maturi, del diventare solidi. Ora che sono in catene per Cristo mi rallegro e mi rallegrerò ancora perché il Vangelo è annunziato. Paolo non aveva bisogno che tutto fosse facile e tutto fosse pronto per essere fruttuoso nel contribuire al progresso del Vangelo. No. Paolo stava dimostrando che aveva imparato a poter ministrare efficacemente e portare gloria a Dio in circostanze tutt'altro che ideali. Ed è questo quello che stava trasmettendo ai Filippesi. Ed è questo quello che vuole trasmettere a noi. E noi? Quali pianeti si devono allineare in una combinazione millesimale affinché noi possiamo gioire di una gioia che l'istante dopo che i pianeti si sono disallineati è sparita? Ma che vita triste! Ma che vita triste possiamo vivere se la nostra ricerca di questa gioia è così effimera, è così breve? Quando possiamo gioire in Cristo ora, nella situazione che stiamo vivendo, di una gioia eterna che prescinde le circostanze. Questo è quello che possiamo afferrare. Se non ora, quando? Se non ora, quando è il momento di permettere allo Spirito Santo di operare? È ora che lo Spirito Santo vuole entrare in azione in te, con te, accanto a te, nel ricordarti, nell'istruirti in quello che è quella gioia eterna preparata davanti a te, ora che forse tutto sembra perduto, ora che non ce la fai più, ora che sei arrivato alla frutta. È vero? Io tante volte ho detto al Signore, Signore, beh, mo siamo alla Macedonia, dopo di qua non lo so come si va avanti. Si va avanti in quel momento, si va avanti ora. Non aspettare che la situazione cambi per trasformare il tuo atteggiamento, permetti all'azione dello Spirito Santo di trasformarti per sbloccare quella situazione. Questa è un'opera straordinaria. Chi, cosa, dove, quando? Ultimo punto, quinto punto, perché? Questo è il mio preferito. Quale spiegazione e motivazione Paolo sta dando ai Filippesi? Cioè lui gli sta dicendo, voi dovete essere felici, ho argomentato tutte queste cose, ma perché lui sta gioendo in Cristo? E come noi possiamo applicarlo a noi oggi? Perché posso gioire in Cristo? Perché tu puoi gioire in Cristo? Perché le mie paure si arrendono al Dio dell'impossibile. Perché sento la tua voce che mi dice sii forte e coraggioso e non temere più, perché lui sarà con te ovunque tu andrai. Perché Gesù ha vinto, perché Gesù ha rotto il peccato in me, perché Gesù permette al male di non avere più potere, perché Gesù mi ha reso libero. Perché né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti o cose future, né potenze, né altezze o profondità potranno mai separarci da Lui. Lo abbiamo cantato. Questa è la motivazione per cui noi possiamo gioire in Cristo, perché è solo per il tuo amore che io e te siamo vincitori, perché siamo rinati in Lui, perché non abbiamo più paura, perché Lui è con noi. La risposta a come, a perché posso gioire in Cristo io oggi è perché Gesù ha vinto. Questo te lo devi scrivere e sottolineare ed evidenziare in tanti colori fluo. C'è una domanda che sicuramente era nata nel cuore di tutti i credenti in quel periodo. E la domanda era: come mai Paolo, che era così influente, era così efficace, era così fruttuoso, aveva contagiato migliaia di persone, come mai ora si trova in prigione? Cioè, se Dio è vero e Dio è amore, come può permettere che questa cosa accada proprio a Paolo? Che è così integro davanti a Dio. Dio ha sicuramente sbagliato. C'è sicuramente un errore in tutto questo. Quante volte questa è stata le domande che tu ti sei posto guardando la storia della tua vita? Quante volte ti sei detto: Signore, ma come mai quella persona a cui voglio così bene, è così brava, come mai sta succedendo tutto questo? Se tu sei amore, se tu ci sei con noi, sei per noi, perché sta succedendo tutto questo? Sapete, in 2 Timoteo, nella lettera che Paolo scriverà a Timoteo, nella seconda lettera, al capitolo 2, lui dice questo: ricordati di Gesù Cristo, Timoteo, risorto dai morti, della stirpe di Davide, secondo il mio Vangelo, per il quale io soffro fino ad essere incatenato come un malfattore, ma la parola di Dio non è incatenata. Ecco perché sopporto ogni cosa per amore degli eletti, affinché anch'essi conseguano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Certa è questa affermazione: se siamo morti con Lui anche vivremo. Perché Gesù ha vinto? Perché la prigionia di Paolo non ha potuto ostacolare il Vangelo. Perché i motivi sbagliati delle persone che stavano predicando per invidia, per diventare più famosi di Paolo, non hanno potuto ostacolare il progresso del Vangelo. Perché l'opera di Dio è ancora in corso. Ecco perché Gesù ha vinto. E questo è il nostro motivo di gioia. Perché Gesù ha vinto le mie circostanze. Gesù ha vinto la mia condizione. Gesù ha vinto la mia malattia. Io posso essere usato per promuovere il Vangelo e io posso imparare a gioire in Cristo. Perché Gesù ha vinto una santa gioia. Una santa gioia. Ricordate che Gesù ci dà la pace, ma la pace è anche sinonimo di gioia. E Lui ce la dà non come il mondo la dà, Lui ci dà una santa gioia. E questa santa gioia è stata riversata nella nostra vita. È stata riversata nella mia vita senza che io me lo meritassi. Che cosa ne sto facendo? Che cosa ne stai facendo? Che cosa ne stiamo facendo? Sapete, come ad una gioia santa corrisponde un cuore grato, questo lo potete segnare nei vostri appunti, mi è uscita bene. Allo stesso modo, labbra grate parlano per promuovere una santa gioia. Luca 6,45 ci ricorda che dall'abbondanza del cuore, Gesù lo dice, parla la nostra bocca. E come ad una santa gioia corrisponde un cuore grato, allo stesso modo delle labbra grate parlano per promuovere una santa gioia. Che cosa stanno parlando le tue labbra? Che cosa stanno dicendo? Salmo 37, uno dei miei salmi preferiti, al verso 4, abbiamo sullo schermo due versioni. La prima è della Nuova Riveduta, ed è così, e dice così: trova la tua gioia nel Signore, ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. E l'altra versione dice, quella antecedente a quella poi parafrasata in un linguaggio più corrente, dice: prendi il tuo diletto nel Signore, ed Egli ti darà le domande del tuo cuore. Sapete, le domande del cuore ce le hanno tutti. Tutti hanno delle domande nel loro cuore. Ma quando noi afferriamo il nostro diletto, la nostra gioia nel Signore, Lui è la nostra risposta a tutte le nostre domande. E quelle domande che tutti cercano risposta, hanno risposta in Cristo Gesù. E tante volte abbiamo citato questo verso in maniera impropria, posso dirvelo? Perché non è che qui vuole dire che Gesù ci deve dare i desideri del nostro cuore a tutto quello che noi gli chiediamo. Qui sta dicendo una cosa diversa. Qui sta dicendo che la nostra gioia è in Lui. Chi, cosa, dove, quando, perché. La nostra gioia è in Lui. E quando la nostra gioia è davvero solo in Cristo, ritroveremo il nostro cuore e i nostri desideri trasformati e allineati con i buoni desideri di Dio per la nostra vita. Questo è quello che ci sta dicendo. E questa frase la possiamo scrivere. Quando la tua gioia trova risposta in Cristo, Cristo vince le domande del tuo cuore. Quando la tua gioia trova risposta in Cristo, Cristo vince le domande del tuo cuore. E oggi ci andiamo ad approcciare alla cena del Signore. E io prego che nell'approcciarci e nel vivere questo tempo santo e sacro davanti a Dio, noi possiamo afferrare. Noi possiamo dire: Signore, io non lo capisco tutto, ma io voglio afferrare la mia gioia in Te. Perché Tu hai vinto. Anzi, vi dirò di più, invito la band sul palco. Ci possiamo alzare in piedi. Vogliamo di nuovo, insieme, dichiarare solo voci che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future potranno mai separarci dall'amore che Dio ha per noi. Perché nel Suo amore noi abbiamo la nostra gioia. Ci siete? Siete con me? E io voglio incoraggiarti a dichiarare. Sapete, quando cantiamo, non è come ascoltare la nostra canzone preferita alla radio. È un'altra cosa. Quello è una cosa bella. Non ci interessa in questo momento. Quando adoriamo e lodiamo è dichiarare. E io vorrei che in questo momento solo voci tu potessi guardare alla tua circostanza e dichiarare queste parole che qui, ora, perché Gesù ha vinto, tu hai vinto. Che qui, ora, così come sei, tu, proprio tu, per quel progresso che il Vangelo vuole fare attraverso di te, tu hai vinto. E questo è gioia. Tu sei gioioso, non perché qualcosa è accaduto intorno a te, ma perché qualcosa si è radicato dentro di te. Sì? Ci piace? Lascio a voi, ragazzi.